Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Colpi d'ala e tanti colpi di kung fu, perché il protagonista di questa puntata ha avuto una vita breve, però piena di scelte coraggiose, di decisioni prese per superare ostacoli apparentemente insormontabili. Questa è una storia di arti marziali, una storia di cinema di combattimento, un genere che in qualche modo ha lanciato non solo il nostro protagonista, ma tanti altri dopo di lui, perché il nostro protagonista ha aperto la strada ai vari Van Damme, Seagal, Chuck Norris. Il nostro protagonista non è stato solo un attore, un uomo di cinema, ma soprattutto il maestro vero di un'antica arte, il Kung Fu. Lui l'ha studiata, l'ha praticata per tutta la vita, arrivando a riscriverne le regole millenarie. Stiamo parlando della leggenda Bruce Lee. Empty your mind. Svuota la tua mente. Sii senza forma, senza limiti, come l'acqua. Se metti dell'acqua in una tazza, l'acqua diventa la tazza. Se la metti in una bottiglia, diventa la bottiglia. In una teiera, diventa la teiera. L'acqua può fluire o spezzare. Sii come l'acqua, amico mio. Be water, my friend. Capito che aria di saggezza tira oggi in questa puntata? Eh sì, perché nelle arti marziali orientali c'è tanta filosofia e tanta saggezza, e la figura di Bruce Lee mette insieme questi diversi aspetti. Come scopriremo, studiò filosofia lui prima di dedicarsi all'insegnamento del Kung Fu, o meglio, della sua versione di questa antica disciplina. La vita di Bruce Lee inizia nella Chinatown di San Francisco, negli Stati Uniti, 27 novembre 1940, anno del drago nel calendario cinese. La sua famiglia si trova lì per la tournée teatrale del padre, l'attore e cantante Lee Oi-chuen. La madre Grace, di origini euroasiatiche, gli dà più di un nome, come si usa da quelle parti, tra questi Xiao Long, piccolo drago, in quanto nato nell'ora e nell'anno cinese del drago. E dopo pochi mesi dalla sua nascita, la famiglia torna a Hong Kong, dove risiede stabilmente. Bruce vive lì la sua infanzia, che non è semplicissima. Si racconta che avesse problemi con i ragazzi più grandi legati alla piccola criminalità locale, e quindi, come spesso succede, a 13 anni decide di studiare le tecniche di difesa delle arti marziali per evitare di prenderle. Si iscrive a una scuola di Kung Fu prestigiosissima, dove studia lo stile Wing Chun. Il suo maestro è Ip Man, l'uomo a cui in pratica si deve la conoscenza del Kung Fu in tutto il mondo. E Bruce si appassiona, diventa un allievo perfetto, però rimane un ragazzo dal carattere piuttosto irrequieto. Bruce frequenta una scuola privata cattolica, una delle migliori di Hong Kong. Non in tanti sanno che, grazie alle conoscenze del padre, Bruce a 17 anni ha già partecipato a almeno 15 o 16 film, tutte produzioni di Hong Kong, a parte il primo Golden Gate Girl. Il film è infatti girato quando la famiglia è negli Stati Uniti nel 41, in attesa di tornare in Oriente. Bruce ha 3 mesi, la sua parte è quella di un neonato. Ma torniamo alla sua vita da adolescente ribelle, attaccabrighe. La conoscenza progressiva del Kung Fu non lo fa calmare o diventare più saggio, non ancora. Al contrario, i suoi scontri, le sue scazzottate sono sempre più frequenti. Anzi, lui, come dire, è supportato finalmente dalla possibilità di darle, oltre che di prenderne. Però diventano un problema per la famiglia, perché è una famiglia rispettabile dell'alta borghesia locale. Sentiamo il ricordo del fratello minore di Bruce Lee, Robert. La sua lotta divenne talmente pericolosa che dei poliziotti convocarono mia madre al college per avvertirla che Bruce non doveva più combattere e che se avessero ricevuto altre denunce in merito sarebbe finito agli arresti. Allora mia madre parlò con mio padre e così lui decise che la cosa migliore per Bruce sarebbe stato cambiare ambienti e amicizie. Mio padre aveva delle amicizie nel mondo dell'opera a Seattle, così si misero in contatto per far sì che Bruce si trasferisse e andasse a scuola là. Bruce could stay there and go to school there. Già questo è un bel colpo d'ala. Lui ha 18 anni, il padre decide di mandarlo negli Stati Uniti a San Francisco da amici di famiglia, lì rimane poco e poi va a Seattle, dove lavora come cameriere per mantenersi mentre studia la Edison School. Si diploma nel 62 e poi si iscrive a filosofia alla Washington University, e in quegli anni però la passione vera non la abbandona mai, la passione ovviamente quella per le arti marziali, per le discipline da combattimento. Nella sua breve vita sarà uno studioso di questo, allargherà il suo sguardo anche verso il pugilato occidentale, verso la scherma. Nel 58 per esempio vince il titolo interscolastico di box, battendo per KO al terzo round un campione di lì, tre volte campione, si chiamava Gary Helms. Insomma, un modo per trovare la sua via al Kung Fu è stato anche quello, per sviluppare uno stile personale che poi lo renderà famoso e gli procurerà anche qualche problema, come sentirete tra poco. Il falco e il gabbiano. Vi stiamo raccontando la storia di Bruce Lee, leggenda delle arti marziali, uomo di cinema, attore, poi regista, produttore, ma soprattutto esperto di combattimento, un ribelle che è capace di scontrarsi con i sostenitori del Kung Fu tradizionale e con la sua stessa comunità. Per affermarsi combatte anche una dura battaglia contro i tantissimi pregiudizi per cui Hollywood era famosa all'inizio degli anni 70, la storia di un uomo morto giovanissimo, a soli 32 anni. E per questo è diventato ancora di più una figura leggendaria. Quindi lui studia il Kung Fu, l'arte marziale cinese, lo studia fin da ragazzino, poi approfondisce quest'arte in ogni suo aspetto, parte dallo stile del Wing Chun, pian piano sviluppa un suo approccio personale fino a sintetizzarlo nel corso degli anni in un suo stile specifico e molto personale, il Jeet Kune Do. Lì è un cultore della forma fisica, è un sostenitore della necessità di allenarsi costantemente. Nel suo programma giornaliero ci sono tutti gli elementi del fitness necessari a sviluppare non solo la forza e la resistenza cardiovascolare, ma soprattutto la flessibilità, che è un elemento centrale nel suo modo di praticare il Kung Fu. Può dirci qualcosa del Kung Fu? Il Kung Fu è nato in Cina ed è l'antenato del karate e del jiu-jitsu. È uno stile molto più completo e più fluido. Con questo intendo dire che c'è una certa continuità nel movimento. Non si tratta di una mossa, due mosse e stop. Che differenza c'è tra un colpo di Kung Fu e un colpo di karate? Beh, diciamo che un colpo di karate è come una sbarra di ferro, mentre quello di Kung Fu è come una catena di ferro, con una palla di ferro attaccata in fondo. Fa male dentro. Per Bruce Lee la questione arti marziali non si ferma alla conoscenza della tecnica e la forma fisica, perché prima di tutto, secondo lui e non solo secondo lui, vanno allenati mente e anima. Senza una preparazione mentale e spirituale adeguata non si può praticare con successo il Kung Fu. Tutto quello che Lee predica, chi lo ascolta verte su questa filosofia. Chi gli si avvicina, magari dopo averlo visto in qualche manifestazione sportiva, lui ripete sempre questa teoria. Però intanto è giovane, insegna cultura e filosofia orientale in università, ci sa fare, insomma decide di aprire una scuola di Kung Fu, una scelta che viene osteggiata apertamente dalla comunità cinese, per la quale non è una buona cosa insegnare agli occidentali i segreti millenari del combattimento, ma lui non è uno che si fa distrarre dai propri propositi. Sentiamo Taki Kimura, il suo allievo più importante. Prior to Bruce's coming to this country, Kung Fu was... Prima dell'arrivo di Bruce negli Stati Uniti il Kung Fu era praticato nella maggior parte delle comunità cinesi, ma non veniva insegnato agli americani. Poi arrivò Bruce con la sua idea di creare una certa uguaglianza tra le persone e scelse di accettare chiunque nelle sue scuole, indipendentemente dalla razza o dal colore della pelle. L'importante era che lui sentisse che nel loro cuore c'erano sentimenti buoni e positivi. Quando arrivò a San Francisco, dove la comunità cinese era particolarmente chiusa, questo suo atteggiamento venne molto criticato e fu obbligato a difendersi. They took exception to it and he had to fight his way out of it. I capi della comunità gli intimano di smetterla con questo tradimento delle tradizioni, ma lui non cede. Gli impongono allora di combattere un incontro singolo di Kung Fu con un rappresentante della scuola tradizionale cinese. E come raccontato in molti film, Li vince e conquista il diritto di insegnare la sua via alle arti marziali. In qualsiasi rivista o libro sull'argomento leggerete che quando qualcuno vi afferra bisogna fare così e così e via dicendo. Migliaia di passi prima di fare una singola mossa. Tutto questo servirà al massimo a farvi temere dai nemici e a farvi ammirare dagli amici. Ma nel Kung Fu il concetto è quello del movimento veloce. Se per esempio uno vi afferra il braccio, basta premergli il collo del piede e quello molla la presa. È questo il nostro concetto di semplicità. E lo stesso vale per l'attacco. Alla base c'è l'idea di ridurre al minimo il movimento così da esprimerlo in modo preciso. Una mossa ed è fatta, con grazia. Non serve urlare e saltellare dappertutto. Scusa ed è fatta. E le battaglie da combattere non sono poche. E prima c'è la sua stessa comunità che osteggia questo cinese poco ligio alle tradizioni. E poi però bisogna combattere anche con i tanti pregiudizi verso gli asiatici, che sono molto radicati in molte parti degli Stati Uniti. E lui se ne accorge presto quando corteggia quella che sarà poi sua moglie e madre dei suoi due figli. E il primo scopo del matrimonio è avere i figli. Noi appena possibile ne avremo. Ma come avranno la pelle? Non come i bianchi e nemmeno come gli orientali. Ovviamente saranno dei mezzo sangue rifiutati da entrambe le parti. Saranno americani. Linda è americana, io sono americano. È americano di adozione, non è un vero americano. Il pregiudizio anti-orientale e i luoghi comuni sui cinesi diventeranno un ostacolo per lui nella sua carriera cinematografica verso la scalata a Hollywood. È un ostacolo però che il giovane maestro di Kung Fu saprà superare. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando una vera e propria leggenda delle arti marziali, il primo che diventò una leggenda nelle arti marziali, Bruce Lee. Lo abbiamo lasciato a metà degli anni 60 e lui ha aperto una scuola dove insegna il suo stile personale, il Jeet Kune Do, letteralmente la via del pugno che intercetta. È una strada basata sulla semplicità, sulla capacità di adattarsi al proprio avversario e sulla conoscenza di se stessi. Come si chiama questa disciplina che pratica? In cantonese Jeet Kune Do. È la via per intercettare i pugni. Intercettare pugni? O calci. Avanti, mi tocchi, ci provi. Per raggiungermi deve avvicinarsi. Il suo attacco mi dà l'opportunità di intercettarla. In questo caso ho usato l'arma più lunga che ho, il calcio laterale, contro il bersaglio più vicino, la sua rotula. È come un diretto sinistro nella box, ma questo fa molti più danni. Ma l'insegnamento non gli basta. Ha sperimentato l'attività di attore, perché da giovane a Hong Kong lo ha fatto, vuole provarci anche in America, e a riportarlo alla recitazione e al cinema è William Dozier, che è il produttore, quello della serie televisiva Batman e Robin. Lui lo nota nel 64 a un campionato internazionale di karate a Long Beach. In quell'occasione lì fa una esibizione con molte dimostrazioni, compresa quella del suo famoso pugno a un pollice. Pollice nel senso dell'unità di misura, è la capacità che lui aveva di colpire con un pugno una persona dalla distanza di un pollice, cioè 2,5 centimetri, facendo volare il malcapitato a gambe all'aria un paio di metri lontano. Ecco come racconta quel pugno incredibile l'attore James Coburn, uno degli allievi più famosi di Bruce Lee. Lui mi disse: ho un pugno da un pollice che è migliore di tutto ciò che tu abbia mai fatto. E io gli risposi: sul serio? Mi piacerebbe vederlo. Lui mi disse di prendere un cuscino. Allora io mi alzai dalla sedia, presi un cuscino e lo tenni in mano di fronte a me. Lui allungò il suo braccio e bang! Mi stese sulla sedia, la sedia cadde e io volai in un angolo con quel pugno sferrato dalla distanza di un pollice. Mi alzai e dissi: andiamo a lavorare, amico mio. Insomma, il produttore lo nota, lo invita per un'audizione e Bruce Lee si aggiudica una parte nella serie TV Il Calabrone Verde. È Cato, l'assistente del protagonista. Poi si trasferisce a Los Angeles con la famiglia. Negli anni successivi ottiene piccoli ruoli in altre serie famose. Nessuno però gli offre ancora una parte da protagonista. Nel frattempo lui è all'apice della sua carriera da maestro di Kung Fu. Ha tre scuole che lavorano a tempo pieno. Allievi famosi, gente dello Star System, oltre a James Coburn, che evidentemente voleva capire come funzionava la storia del pugno da un centimetro. Si allenano con lui anche Steve McQueen e il campione di basket Kareem Abdul-Jabbar. Sentiamolo. Bruce era un rivoluzionario e un ribelle, in quanto pensava che le arti marziali più diffuse fossero rimaste troppo legate alla tradizione. Molti di quelli che insegnavano arti marziali in realtà esaltavano una forma nazionalistica e una certa visione del mondo, invece di un metodo pratico ed essenziale di combattimento. E lui voleva arrivare alla pura essenza dell'arte marziale. Ma nel 1970 Lee subisce un gravissimo infortunio. Sbaglia il riscaldamento muscolare prima di una seduta di allenamento di sollevamento pesi. Stira il quarto nervo sacrale nella parte inferiore della schiena. Non è una cosa da poco, perché i medici gli prospettano un quadro spaventoso. Intanto rischia di non poter più tornare a essere l'atleta di prima. E poi, intanto, è condannato alla totale immobilità. 6 mesi per coltivare la speranza di riprendersi. Sentiamo sua moglie, Linda. Per Bruce, il fatto di dover stare a letto 24 ore su 24 per circa 6 mesi era qualcosa di insopportabile per uno come lui. Eppure lo fece perché sapeva che per avere un futuro, se voleva anche solo tornare a camminare normalmente, doveva dare alla sua schiena il tempo per guarire. Allora trascorreva gran parte del tempo a riposo, sdraiato a letto o seduto in poltrona, ma non era il tipo che sta con le mani in mano. Così impiegò gran parte di quel periodo svolgendo ricerche nella sua biblioteca vastissima. Studiò vari volumi sulle arti marziali, sull'arte del combattimento moderno e antico, sul corpo a corpo, in Occidente e in Oriente. Lesse molti libri di filosofia e di psicologia sul tema della motivazione. Essendo bloccato a letto, sentiva il bisogno di automotivarsi continuamente. 6 mesi di immobilità, poi si riprende e torna a quello di prima, agile, veloce e potente. Incredibilmente potente, contando che lui è alto 1,73 m e pesa 64 kg. Così decide improvvisamente di chiudere le sue scuole di Kung Fu, di dedicarsi completamente al cinema. Se Hollywood non lo vuole, se il pregiudizio verso gli orientali nel mondo del cinema americano è troppo forte, lui decide di andare a fare i suoi film a Hong Kong. Io vivo qui e sono cinese. Non dico di essere discriminato, ma realisticamente, quanti ruoli ci sono per un cinese nel cinema americano? E quando ci sono, sono solo stereotipi. Capisce cosa intendo? Allora io dico no, grazie. Tornare a Hong Kong si rivela la scelta giusta. Lee interpreta il suo primo film da protagonista nel 71. Il furore della Cina colpisce ancora. E l'anno dopo è la volta del celeberrimo Dalla Cina con Furore. Lui è sempre più coinvolto nelle scelte dei film che interpreta, soprattutto le coreografie delle scene di lotta, per le quali diventa un mito per gli stuntmen e allo stesso tempo è il loro terrore. Ecco il ricordo di uno di loro. Ti poteva colpire in 10 punti diversi e come stuntman non avevi nemmeno il tempo di tenerti la mascella o la pancia e di dire mi ha fatto male. Così il coordinatore degli stuntman fece del suo meglio per rallentare Bruce, perché loro erano abituati al metodo dei film western alla John Wayne, più lento e prevedibile. Un colpo di sinistro, poi si giocava un po'. Bruce invece poteva scaricarti addosso una raffica di 37 calci e 12 pugni. Così calcio dopo calcio, pugno dopo pugno, lui fonda una casa di produzione, la Concord Production. Nel 72 realizza un film tutto suo, L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente. Scrive la sceneggiatura, lo dirige, lo produce, interpreta il ruolo principale e nel film appare anche Chuck Norris in una famosa scena di combattimento all'interno del Colosseo a Roma. Per girarla la troupe impiega 3 giorni di riprese, sono 20 pagine di copione piene decine di disegni del combattimento realizzati proprio da lui, da Bruce Lee. Forse è la scena di lotta più famosa della storia del cinema. Nel 73 arriva la vera e propria consacrazione con il film I Tre dell'Operazione Drago. È un successo planetario, è il secondo maggiore incasso nella storia della Warner Bros. Bruce Lee è ormai una leggenda delle arti marziali. A maggio del 73, mentre gira proprio Operazione Drago, lui ha un malore. Vomita, ha la febbre alta, ha le convulsioni. Sul set lui non si è mai risparmiato, ha sempre curato ogni aspetto della produzione, è esausto, però non si ferma. E poi il malore, provocato da un edema cerebrale, a sua volta causato da una profonda disidratazione. In ospedale gli viene somministrato un farmaco, il mannitolo, per cercare di ridurre la pressione al cervello. Sopravvive, si riprende rapidamente, passano 3 mesi e lui è a Hong Kong, deve incontrare un produttore per parlare del suo prossimo film Game of Dead, di cui ha già girato alcune scene con una sua amica attrice Betty Ting Pei. Ha una fortissima emicrania, assume un antidolorifico, si mette a letto e si addormenta. Non si sveglierà mai più. La settimana scorsa si è tenuta una commemorazione pubblica a Hong Kong. 12.000 persone, molte delle quali ragazzine in pianto, si sono raccolte mettendo a dura prova le barriere della polizia. La cerimonia di oggi, invece, è stata molto più tranquilla. Gli ospiti erano ammessi solo tramite invito. Gli ospiti invitati erano un mix di appartenenti alla comunità cinese di Seattle e divi di Hollywood, ambienti che Bruce Lee conosceva bene. I capi della delegazione hollywoodiana erano Steve McQueen e James Coburn. Lee aveva rivelato ad entrambi la sua versione speciale delle arti marziali nella scuola di Los Angeles. E sulla morte di Bruce Lee, che oggi riposa in un cimitero di Seattle, sono sorte leggende. Si è parlato di misteri fino a ipotizzare un complotto contro di lui, reo di avere diffuso agli occidentali i segreti delle arti marziali cinesi. Peraltro sono voci che sono tornate in auge quando il figlio attore Brandon è morto a soli 28 anni, ancora più giovane del padre. È morto anche lui sul set di un film. Non si sa se è un mistero o una realtà, insomma la scomparsa prematura di Bruce Lee l'ha reso una leggenda, fissandolo nella nostra memoria come il più grande interprete di sempre delle arti marziali orientali. To me, okay? To me. Per me, arte marziale vuol dire esprimersi nel modo più sincero, ed è una cosa molto difficile da fare. Per me sarebbe molto più facile fare la parte del bulletto, esibirmi, sentirmi forte. Potrei benissimo limitarmi a recitare. Potrei stupirvi con una serie di movimenti ad effetto. Ma esprimersi con onestà, senza mentire a se stessi, con sincerità. Questo, amico mio, questo è molto difficile da fare. Very hard to do. Colpi d'ala, battaglie da combattere nella vita di Bruce Lee. Ci sono i numeri uno, ci sono i grandi e poi ci sono quelli che una cosa la fanno per primi. Lui per primo ha diffuso in Occidente e nel cinema la sua millenaria cultura. Sono storie di chi è riuscito, ha tentato, ha avuto cadute, risalite, tutto quello che ognuno di noi nella vita può fare, cadere e risalire. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare i riflettori, cioè il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it. Oppure visitate la nostra pagina su radio24.it, oppure venite a cercarmi, a cercarci sui miei, sui nostri social. Insomma, se volete, sapete dove sono. Ciao, a domani.